Vacanza di lago. Capitolo sesto. I ragazzi proseguirono a piedi, più spediti per la strada in discesa, entrambi con l'animo più leggero, anche se stanchi e sudati. Pierre le sfiorava la nuca con il suo spartito e poi gli piegava sul davanti il cappellino da baseball. Martino gli camminava davanti e strappava il tarassaco dalle pareti di tufo che costeggiavano la loro strada. Al loro arrivo, al borgo di San Federico, il mercato era ancora molto affollato. Martino si immerse in quei corridoi di luci basse, stretti e colorati, senza più pensare a nulla. Cominciò a comprare stoffe, un paio di tendine per la cucina della nonna, dei calzini bianchi. Era abbastanza distante da Pier, che intanto proseguiva per conto suo, badando comunque a non perderla di vista e sbadigliando più volte tra le grida vivaci degli ambulanti. Pierre non era abituato a quei fuori programma così movimentati rispetto alle sue andate regolari e monotone al castello durante i giorni più intensi dei corsi di perfezionamento. Martina lo raggiunse di corsa e tutta elettrizzata per mostrargli quelle tendine che avrebbe regalato alla nonna. Erano tutti arancioni, appena trasparenti, con dei ricami chiari al centro, a forma di piccoli rombi. Mentre parlava con Piero, Martin cominciò a distendere le davanti, in modo da vederlo trasformare e mutarsi di altre tinte ed espressioni ombrate e surreali, in trasparenza e in alternanza. Attraverso quel tessuto delle tendine, tutto quello che le passava davanti agli occhi diventava molto più delicato e un po' rarefatto, forse ancora pregiato e liquido, alle sue percezioni ancora disturbate e confuse, immerso dentro un tramonto rarefatto, come di fiaba, tragicamente eterno. Ma di colpo quel volto di donna bruna e magra, incrociato misteriosamente poco prima, le ricomparve in quel preciso momento, dentro il prisma di quel colore strano di agrumi marci, soffocato nella rabbia del sole del mezzogiorno, la sua paura incontrollabile, improvvisa, che le mozzò il fiato. Quello stesso viso così doloroso, appassito, si stagliò nel filtro della sua visuale, confusa dal tessuto, passandolo accanto con estrema indifferenza, carica di buste di frutta appena acquistate, intrecciate alle dita, mentre si allontanava. Martina lasciò cadere di colpo le tendine a terra e cominciò a scappare in direzione opposta a quella della donna, travolgendo accidentalmente diversi passanti. Pierre rimase a guardarla, attonito. Raccolse le tendine e cominciò ad affrettare il passo per raggiungerla, senza riuscire a capire. La corriera arrivò dopo pochi minuti. Martino aveva già raggiunto la fermata. Salirono entrambi, appena in tempo per non perderla. Stamattina non ti capisco. E poi, dopo tutto quello che io ho fatto per te, adesso mi tieni anche fuori. Nessuno ha mai fatto qualcosa per me. È inutile che adesso cerchi di attribuirti meriti inesistenti. Nessuno, nessuno, nessuno. Abbassa la voce. Raggiunsero gli ultimi posti sul retro del veicolo, entrambi fumanti di rabbia. Martin si rabbuiò al viso, gli diede le spalle, prendendo a sonnecchiare, con la testa appoggiata al finestrino che tremava di motore e le scuoteva tutta la tempia. Pierre rimase perplesso e ancora molto nervoso. La lasciò riposare per tutto il tragitto, senza più parlarle. Il ritorno al lago consentì a Martin di focalizzare con maggiore calma tutte le sue ultime inquietudini e quelle strane suggestioni vissute in quella lunga e indimenticabile mattinata. A tavola mangiò poco e svogliatamente. Per cui nessun incontro con il fatidico maestro Flashing, a quanto mi sembra di capire. Ha detto Pierre che domani ci saranno tutti. Forse ci ritorno insieme a lui. Mangia qualcosa, tesoro, almeno le patate. Me le conservi stasera. Ma è ancora per via delle curve che non hai appetito. Non lo so, è che mi sento così strana, non lo so spiegare. Provo a chiacchierare un po' con Pier della sua musica. Vedrai che così ti distrarrai e non ti accorgerai di niente. Chissà. Il nonno intanto si era alzato da tavola, con aria pensierosa, soddisfatto del buon pasto appena consumato. Io vado a fare due passi. Cosa fai, vieni anche tu, Martin? Sì, adesso te li aggiungo. Avviati, nonno. La nonna aveva lo sguardo molto attento ai colori pallidi e diversi e Martin mostrava sul volto da quando era ritornata. Allora non credo più niente. Mi dispiace, nonna, e poi dovresti saperlo quanto mi piacciono le cose che fai e che adesso mi sento davvero pieno. Non chiedemelo più, ti prego. Piena da scoppiare, vero? Ma se non hai toccato quasi niente, come fai a dire che sei pieno? Ti rendi conto almeno di quello che dici? Il nervosismo mi chiude tutto. Sono piena dei miei nervi tesi, contratti, che mi chiudono. Mi blindano lo stomaco come una cassaforte. E adesso è meglio che tu vada, altrimenti il nonno non lo acciuffi più. Quello lì è una bella falcata. Faticherai a stargli dietro, contaci. Martì, appena uscita, riprese a respirare l'aria ancora assolata dei campi circostanti. In lontananza vedeva già il nonno, che ogni tanto rallentava e si girava nella sua direzione per controllare se fosse già uscita. Le sembrava di stare già dimenticando per un incanto misterioso i suoi recenti turbamenti del mattino. Fece una corsa sfrenata per raggiungerlo, lo abbracciò forte e chiuse gli occhi, schiacciandosi il viso sul suo torace duro. L'uomo l'accolse, senza muoversi. Camminarono insieme per un po', fino a quando le loro strade non si divisero. Alfio rifece il giro dal lato opposto, per poi ritornare indietro. Martin, invece, decise di proseguire ancora. In quel paesaggio calmo e invitante del primo pomeriggio, e passeggiando lungo la zona più interna del paese, Martin scorgeva la finestra aperta dell'abitazione di Dussier, gli zii di Pierre. Dall'interno della stanza, il suono meccanico e lucente, tipico delle sue esercitazioni ossessive al pianoforte, che ogni estate planavano dolci sul lago. Martin pensò a quanto fossero belli quei suoni particolari, ascoltati a quell'ora così incantata e privata del pomeriggio. Si sentì come risollevata da quell'intimità e allora lo chiamò a gran voce, senza timore: Pierre! Il suono continuava insistente e soffocava con la sua bellezza quella sua voce graffiata, procedendo nella raffinatezza e nell'abile intarsio nebbioso degli accordi in sequenza e in dissoluzione, e poi ancora nel vento, ancora limpidi di quel suono ampio, pervadente, imprevedibile. Martina allora proseguì, pensando di raggiungerlo al suo ritorno e sperando che più tardi avesse finito. Adesso pensava soltanto all'incontro col maestro Flashing e al modo migliore per raggiungere la sede dei corsi senza rischiare ulteriori problemi allo stomaco. Quando Martino ripassò per la finestra, Pierre aveva smesso di suonare. Allora bussò direttamente alla porta, senza chiamarlo. Aprì la vecchia zia. Martin, che sorpresa! Finalmente si rivede! Buonasera, signora Greta. Le chiedo scusa per il disturbo, ma che cosa dici? Anzi, eravamo preoccupati di non averti ancora visto. Entra, entra, accomodati che adesso chiamo mio marito. Martin esitò, poi accettò l'invito, cercando nel frattempo di scorgere tracce di Pierre. La stanza era sempre uguale, come l'aveva lasciata l'anno addietro. La tappezzeria pesante, i quadri e le poltrone rosse, che sembravano persone vive, come tutti gli altri oggetti, che scrutavano il nuovo ospite con riflessi di occhi quasi umani, a tratti molesti, impenetrabili. Allora, lo prendi un bel tè freddo, Martin? Sì, io lo prendo verde. Abbiamo il tè agli spinaci, disse lo zio Paolo, entrando con disinvoltura e in completo da tennis. Buonasera, signor Paolo. Stai comoda, tesoro, che vengo io da te. Come andiamo? Come mi vedi? Mi difendo. E tu? Sei in cerca del nostro artista, vero? Sì, solo un saluto, poi devo tornare a casa. Io allora scappo e mi raccomando, saluti il nonno Alf. La vita del lago lo rianima. Da quando sono arrivati qui non fa altro che stare fuori, mentre io sono chiusa qui a badare a Pierre, ad accudirlo. Perché allora non esce un po' anche lei? Non mi piace lasciarlo da solo. Non lo vediamo mai, per tutto l'anno. E quando ritorna l'opportunità di stare insieme a lui, non voglio perdere nemmeno un minuto. Perché poi la vita se lo prende e si rimane più vuoti di prima. E questo non è giusto. Anche i nonni la pensano un po' così, sa? Ecco il nostro maestro, hai visto chi c'è? Pierre, finalmente! I ragazzi si salutarono con affetto. Pierre nel suo ambiente mostrava ancora più evidenti quei tratti rocciosi e tenaci del suo carattere, che adesso cercavano invano di ammorbidirsi in presenza della zia. Domani allora si va. Per me va benissimo. La sera che incalzava lasciava le sponde del lago delle loro case uguali immerse da una luce pura e fioca di landa nordica e sfocata di faro, che adesso ammorbidiva le loro parole con i pensieri di quell'ora dolce e strana che precedeva l'orario di cena e agitava il respiro con lo stesso velo leggero dei tempi lontani al refettorio dell'istituto Andersen. «Ti trattieni con noi a cena, Martin?» disse la signora Greta. «No, la ringrazio, signora, ma stasera mi aspettano. Io allora ritorno in cucina, ragazzi. Se mi volete, sapete dove trovarmi. Io allora vado, signora. Approfitto per salutarla adesso. Sono stata contenta di averti rivisto, Martin. Passa qui quando ne voglia. Ah, a proposito, visto che ci siamo, perché non porti un po' di crostata ai tuoi nonni? Ho dimenticato di offrirtela prima. Magari, se c'è...» «Stupidona, se non c'era, mica te l'avrebbe offerta la zia», le disse Pierre con la sua solita ironia pungente. «Non lo vedi che ne imbarazzi quando fai così? Signora, ormai ci sono abituata, non ci faccio quasi più caso. Non si direbbe, Colombina, adesso sei anche tutta rossa», gli disse Pierre. «Vieni qui, piccola. Intanto io mi avvio, ti aspetto fuori. E adesso tu dove vai, Pierre? L'accompagnerò per un tratto. Ho voglia di camminare stasera. Non fare tardi, che sono da sola. Perché? Lo zio dov'è? Va a cena con Guglielmo, non ricordi?» La casa degli zii di Pierre dava serenità e fiducia a Martin. In ogni angolo vigevano un ordine e una pulizia difficili da trovare in altre abitazioni della stessa zona, dove si preferiva intrattenersi tutto il giorno fuori e trascurare la qualità degli arredi e la cura degli interni. Gli odori del legno e della buona cucina di Greta prevalevano sopra ogni altra sua ansia e angoscia. E così, per il poco tempo passato in quella casa, Martin sembrava aver riacquistato di colpo quella dolce e cullante serenità dell'animo che a volte credeva perduta per sempre. I due ragazzi si incamminarono con aria sognante verso la casa dei nonni, con il lago ombrato di rami curvi e ancora più calmo, che oscillava appena alla loro destra, come se respirasse. Le luci lontane delle case facevano compagnia alle loro parole brevi, addolcite appena dalla sottile opalescenza del crepuscolo. L'indomani lo stesso appuntamento, allo stesso luogo. Martina adesso non pensava più alle curve che avrebbe incontrato. Il nonno aveva fatto compagnia per un po', augurandole un colloquio proficuo e fortunato con il grande professore di violino, Flashing. La corriera arrivò puntuale, nel suo blu solito e sempre più stinto. I ragazzi durante il percorso parlarono poco, ancora meno del giorno precedente. Pierre impugnava gli stessi spartiti, appena più sgualciti, ficcandoci sempre il naso dentro. Martina era tutto in rosso, con un vestito leggero che sembrava richiamarne ancora più luce intorno. Gli stessi occhiali, ma senza il cappello. «Come ti va il tragitto stamattina? Ce la faremo allora a raggiungere il castello», le disse Pierre. «Fino ad ora sto bene. E poi non chiedemelo più, altrimenti ci penso troppo e mi suggestiono». I ragazzi si gustarono il tratto più interno e boschivo che l'altra volta non erano riusciti a raggiungere insieme. Fu giusto da quel punto in cui erano scesi il giorno precedente che Martin cominciò a concentrarsi su tutti i punti laterali alla strada per cercare di scorgere il famoso villino numero 36. Le strade erano solo polvere e terra, fumante di tufo, che sembrava giocare e sfocarsi nei riflessi di mattone caldo, nella sua tinta giallo carica, sottratta alle pareti infrante più vecchie e roteante di vento le vortici con gli effetti più rossi del sole a dare un senso di sgretolamento delle cose e dei pensieri che vi si accostavano lacerandosi. Dopo la curva più grossa, un accenno timido di vecchie case diroccate, ancora in ombra e per il gioco della luce solare che ancora doveva girare, il villino numero 36 spuntò come una chiazza in attesa di prato su di una strada cittadina. Quando la salita cominciava ad addolcirsi e la corriera stranamente rallentò, Martino la guardò, trattenendosi le parole in gola. Il viaggio proseguiva senza malesseri e interruzioni. Martin continuava a pensare e a sudare di ansia, mentre le file ridenti e composte di alberelli si smorzavano nelle loro tinte violette sui primi cocci screziati del centro storico, che a quell'ora del mattino scoppiava di una luce ancora buona, invitante e rilassante, al solo guardarla svanire. Lungo l'ultimo tratto, le prime tracce umane. Ragazzi vivaci e sorridenti con custodie colorate di strumenti musicali sulle spalle magre. Stranieri in pantaloncini corti, dalle gambe bianchissime, capelli rossi o biondi, stormi lucenditi, lunghi svedesi, sedie azzurre in disordine all'ingresso del bar, uno strano fermento di gioia e di eleganza. Pierre cominciò a prepararsi. Martino lo seguiva. E ricordati di non alzare troppo la voce quando parli, e poi non incrociare le tue domande con le tue risposte. Mi raccomando, che qui è tutta un'altra cosa, capisci? Ma per chi mi hai preso, Pierre? Guarda che io mi so comportare in certi ambienti, cosa credi? E lo dico per il tuo interesse. Flashing è una persona molto molto acuta, che osserva i minimi particolari delle persone. Te ne accorgerai da te, vedrai. Martin ascoltava i consigli dell'amico e intanto scalciava con le sue scarpette ballerine i sassolini bianchi lungo il sentiero in pietra, che le avrebbe condotti direttamente all'ingresso del castello, dove poi avrebbero raggiunto finalmente la loro sospirata meta. Allora, sei pronta? Agli ordini, signore, anzi, maestro, va bene così? Vuole forse anche l'inchino? Pierre le sorrise, stancamente. Le si avvicinò con maggiore dolcezza e la prese piano per un braccio. Martin, tu adesso dovresti cercare solo di capire che cosa ne sarà della tua musica e anche un pochino di te. Questo oggi è un giorno molto importante. Pensa che questo maestro Flashing è un caposcuola, è un didatta di fama internazionale. Avrai tutta la verità che hai sempre cercato. In una sola volta, non sei contenta? La verità sul mio violino, dici? Perché quante altre ne cerchi ancora di verità? Non lo so. Comunque, grazie, Pier. Scusami se ogni tanto sono un tantino nervosa con te. Anche tu dovresti cercare di capirmi. Perdonata. Adesso però non pensiamoci più. Ascoltami bene. Ci sono gli allievi effettivi che stanno suonando e poi gli uditori che comunque sono iscritti ugualmente al corso. Fin qui è tutto chiaro? Per adesso. Dunque, a noi converrebbe ascoltare da fuori un paio di lezioni, poi approfittare di una pausa un po' più consistente per avvicinarci. Se poi non riuscissimo a farlo durante la mattinata, lo si beccherà a pranzo in qualche modo. O forse sarebbe anche meglio. Allora cosa ne dici? Per poter ascoltare le sue lezioni. Questo vedrò di chiederlo io stesso in segreteria. Intanto vado a prendere i ticket per il pranzo e mi informerò anche sull'orario in cui devo suonare io, in modo che tu possa regolarti anche sui miei tempi, non credi? Capisco? Anche se. Se? No, niente, è una sciocchezza. Dimmi, dai, non farti problemi, Martini, stavi per dirmi qualcosa. Niente, avrei piacere di assistere ad una tua lezione, ecco. Davvero? Questa poi, e come mai? Mica me l'aspettavo così a bruciapelo. Stupido che sei. Dico davvero. Un po' mi hai sorpreso, piccolina. Perché non ci credi? Non lo so, è che ho sempre assaggiato la tua musica come un biscotto spaccato, mai per intera. Dalla finestra, o quando ti chiamo da fuori e tu stai ancora seduto al tuo pianoforte. Invece, non lo so, mi andava di godermi almeno per una volta un tuo momento musicale, tutto per intero. Una tua lezione, con l'attenzione giusta. Se ti fa piacere, Martina, è solo che dovresti cercare di ascoltare anche le lezioni di violino. Per te sarebbero molto più importanti. Sono un'esperienza fantastica, te lo assicuro. Vorrei sentire prima te, invece. La musica come un biscotto. Ma che cose strane che dici? Piera arrossì, sorpreso da quella strana insistenza così inattesa, e quasi le sfuggiva lo sguardo, che fino a poco prima ostentava in tono minaccioso e semiprotettivo, quasi rivitalizzato dallo smarrimento e dall'impaccio tenero di Martin e quella sua richiesta. Sembrava che per incanto si fossero invertiti i ruoli e che adesso fosse Martin la più forte tra i due, per quella sua curiosità dolce e così infantile, con cui mutava e smuoveva la solennità di quei luoghi così austeri, degli occhi gelidi e azzurri di Pierre.